Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Ascoltate per qualche secondo. Ecco, mi piacerebbe poter fare un sondaggio per capire quanti di voi ascoltatori sono riusciti a individuare il contesto nel quale ho registrato questo sound, o meglio, che cosa ho registrato. Non sarei sorpreso però se un certo numero di persone fosse effettivamente riuscito a capire di cosa si tratta. Questa specie di sibilo che sentite infatti è quello della ruota anteriore di una moderna cyclette, mentre la musica unita alla voce dell'uomo che dà i comandi identifica una seduta di cycling. Parliamo di fitness, quindi un tipo di attività a cui sempre più gente si dedica. La domanda che si sono fatti alcuni costruttori di ciclette allora è se non si possa per caso sfruttare l'energia muscolare di tanti appassionati, oppure fissati, fate voi, della forma fisica per risparmiare un po' di corrente elettrica. Il concetto è semplice tutto sommato: invece di una bicicletta che oppone resistenza con un freno, si tratta di progettare una bicicletta che oppone resistenza per mezzo di un piccolo generatore elettrico. Non è qualcosa con cui si può sottrarre il pianeta al riscaldamento globale, ma certamente qualcosa che può contribuire, questo sì, a rendere meno energivore le numerose palestre sparse un po' ovunque per il paese e anche nel mondo. Così settimana scorsa all'Ibis Hotel di Milano si è svolta una singolare competizione in cui squadre di ciclisti dilettanti e team di atleti in piena regola si sono sfidati a chi produceva più energia elettrica con la forza delle gambe. Ogni squadra, guidata da un istruttore, si è impegnata a pedalare per 15 minuti a ritmo piuttosto sostenuto, mentre l'energia prodotta da ogni bicicletta veniva mostrata su un grande schermo posto di fronte ai pedalatori, alcuni dei quali sono usciti, va detto, decisamente devastati dall'esperienza. Io sono andato a questa presentazione dove ho incontrato Ernesto Breda, coordinatore tecnico dell'iniziativa, a cui ho chiesto come prima cosa quanta potenza abbiamo nelle gambe. Ascoltiamo. Ah beh, diciamo che la persona normale, come si può vedere lì, viaggia sui 100 watt, mentre un atleta può arrivare a 200-250 watt. Quindi 250 watt, questo ci fa anche riflettere che insomma sono due vecchie lampadine, se ci pensiamo, pensiamo bene, due vecchie lampadine. Anche tre, diciamo 75 watt, che era una delle taglie medie presenti nelle abitazioni. Sì. Ma insomma ci fa riflettere su quanta energia consumiamo, certo. Per tenere accese tre lampadine vuol dire pedalare... Ah sì, impegnativo, ore e ore. Allora, qui stanno per scendere insomma sudatissimi dalle biciclette. Le chiedo allora come funziona complessivamente quindi questo sistema. Allora, ci sono delle biciclette che montano sulla parte anteriore, sì, attaccata alla ruota, un generatore. E quindi cosa succede? A 12 volt, corrente continua, che noi mandiamo attraverso dei regolatori ad un sistema di batterie, dal quale poi preleviamo anche per le utenze che in questo momento stiamo alimentando, tipo dei faretti a 12 volt. Attraverso poi degli inverter abbiamo collegato anche delle utenze in corrente alternata a 220 volt. Tutto questo per mantenere un equilibrio tra l'energia prodotta e l'energia utilizzata. La parte eccedente ce la teniamo nelle batterie, che abbiamo provveduto, abbiamo messo tre batterie da 100 ampere ora che abbiamo scaricato quasi completamente, che adesso fanno da accumulatore degli eccessi di energia. Questo perché non è previsto dalla legge lo scambio sul posto, no, esatto, per l'energia muscolare. Sì, al momento diciamo che non c'è questa possibilità, per cui qualora uno volesse utilizzarla, la utilizza accumulandosela e poi riutilizzandosela al proprio interno. D'accordo, ecco, è pensabile che una palestra si autoalimenti completamente in questo modo? Allora, insomma, bisogna porsi delle condizioni. Allora, se nella palestra abbiamo due biciclette con generatore e una macchina unica di quelle, gli attrezzi per fare sforzi muscolari che non consumano energia, e rinunciamo o sostituiamo un nastro, un tappeto da quelli con trazione a quelli senza trazione, si può arrivare alla, come dire, all'autosufficienza energetica. nel caso di un nastro, di un tappeto da corsa con trazione, no, non ci si riesce, perché la potenza impegnata dal nastro è importante. Sono circa 1200 watt, che è un numero abbastanza sorprendente, tutto sommato. Ecco, senta, quindi alla fine, diciamo, dopo che finirà la dimostrazione, adesso stanno per darsi il cambio, sta per salire la nuova squadra, che insomma speriamo finisca, diciamo, in condizioni migliori di quest'ultima. Comunque, insomma, l'istruttore ci dava dentro. Dove verranno installate queste ciclette? L'idea di Accor è quella di, non credo sia immediata, ma l'idea è di attivarsi per arrivare nei nostri fitness center che hanno i Novo Hotel. Non ci sono in tutti gli hotel del gruppo, ne abbiamo una dozzina. Lì arrivare a mettere unità che generino energia e un sistema che ci permetta di essere autosufficienti, o comunque almeno in modo importante, parzialmente. Grazie Breda. Prego, buonasera, grazie. Bene, anche a questa puntata tra il serio e il faccetto si avvia in chiusura. L'appuntamento è per domani. Parleremo di solare termico di seconda generazione, che dovrebbe consentire uno scatto significativo nelle applicazioni termiche dell'energia solare. A domani.